L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. E va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Se volete dare gli auguri di Natale a Cruciani per farlo incazzare, o volete insultare il Papa, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta con tanti auguri, 800 24 0024. Se invece volete contattare le puttane romene di Vieste, o volete sapere se Andrea Mercuri tira ancora l'uccello, o volete mandare a cagare Parenzo in differita con tanti auguri, 393 71 71 701. A me ne frega niente, a me. Caro David, mi è arrivato un regalo. Scusami, come mai, no, visto che è l'ultima puntata, mi sovviene ora che questa voce che dice il numero, sì, no? Sì, sì. C'è una cosa che però dice che bisogna fare sempre, no, questo non capisco. No? Cioè, dice, fare... No, che bisogna fare sempre, cioè comunque c'è una costante, diciamo. I matematici lo chiamerebbero comune denominatore, no? Sì, se volete andare a fare il culo Varenzo, sì. Esatto, cioè, in qualunque situazione c'è sempre comunque andare a fare, capito? Mi sembra. Sì, vabbè, dice sempre così. Era bello l'attacco, grazie. Chi ci ha seguito, buone vacanze. Sì. Ci vediamo forse nel 2017. Finiamola qui, bellissimo oggi. Allora, bellissimo. Ragazzi, prima di Natale mi hanno regalato 36. Mi hanno regalato un paio di mutande. Oh, mamma. Forse no, ma regalo gradito. Mi hanno inviato ma qui chi? Un paio. Non lo so chi? Perché è arrivato qui in redazione dopo tutti i discorsi che facciamo sulle mutande. Mm. Un paio di mutande nere, anche abbastanza oscene, devo dire la verità. Però comunque nere va bene, no? Poi mutande nere, tu di solito di che colore usi le mutande, Davide? Scusa. No, io se la cosa interessa a qualcuno uso boxer. Sì, ma come? Per boxer o slip innanzitutto? No, no, no, ti ho detto boxer, ho detto boxer. Beh, di che colore? Colore vario, non te ne frega niente, li prendi a mercatino blu. 5 euro di solito. No, che non dico la marca di dove li prendo, ma prezzo, è una sì, nota. Sì, cioè 25 euro come minimo, 25 euro no, a botta. No, 25 no, però insomma però 15, sì, boxer. Sì, 15 sì. Sì, almeno boxer blu, allora, di, questi qua sono ottimo, delle... di ottimo cotone. Di in ottimo genere, cotone. Sì. Questi qua sono dei boxer sì, neri, sì, dei boxer che mi hanno sì, mandato oggi. Sì. E forse è il giorno giusto dopo 4 giorni per cambiarli. È giusto iniziare così la trasmissione in una giornata in cui è caduto di tutto. È giusto che tu allora ragazzi parliamo subito, renda edotto il parliamo pubblico subito della, di finiamo una cosa qui come... Grazie a chi ci ha seguito, buon proseguimento con sì, i nostri programmi. Parenzo, hai rotto il cazzo tutte le sere, chiudiamola qui, finiamola qui, vuoi sempre fare la trasmissione di 5 minuti? Sì sì, 5 minuti, cioè bellissimo, vedi che si arrabbia la gente, la gente si arrabbia, si indigna e ascolta anche se non c'è la puntata, e noi pagati, bellissimo. Porca puttana, io se fossi nei vertici di Radio 24 ti muterei ogni volta che apri bocca, coglione. C'è un bel clima nei miei confronti, mi pare, no? C'è un bel clima, un bel clima. Allora ragazzi, vi faccio ascoltare sì, due cose sentiamo, importanti. Quello che ha detto, secondo me in maniera incredibile, il ministro degli interni, neo ministro degli uno interni uno dei migliori ministri degli interni che l'Italia abbia ma avuto appena dopo iniziato, Napolitano. Ma appena iniziato, ma che cazzo ne sai? Lo conosco da anni. Ma Minniti, sei veramente un leccaculo. È guarda, stato storico sottosegretario degli interni, è uno degli uomini ma chi se ne frega, più preparati e uno dei grandi conoscitori ma della macchina dello Stato. Ma non ce ne frega un cazzo. Uno dei ma grandi frega conoscitori, niente, una no, grande ma perché esperienza. Devi fare il leccaculo? Aspetta, ma il leccaculo aspetta, di chi? Ma che me ne frega a me? Allora, Minniti, non me ne frega niente. Minniti, uno che fa il ministro dell'interno, sapete, quello pelato che. Cioè, vede, guarda che non è nuovo, è già, so era già vice ministro prima. Innanzitutto la sfiga di Alfano. La sfiga di Alfano che cambia ministero il giorno in cui poteva sì, andare tronfio bravo, ad annunciare la morte del terrorista di Berlino. Sì. In il merito se lo piglia un altro. In realtà non è manco merito. Cioè, in realtà non è merito. Sì, ovvio che ma non no, è merito. Ma non è merito manco per niente. Ma sì, infatti. E poi c'è un altro elemento. C'è un altro elemento. Adesso ti faccio sentire tutto. Guarda. Un altro elemento? È una cosa incredibile. Elemento? Allora, vi pare normale che praticamente qualche ora dopo siano già noti i nomi di chi ha ucciso il terrorista? Cioè è giusto rivelare i volti, le famiglie che parlano con chiunque, eccetera eccetera. Allora, se quello è un pericoloso terrorista, addirittura, addirittura su mandato ISIS, su mandato dell'ISIS, è normale svelare subito i nomi, nome, cognome, paese, origine, eccetera, dei poliziotti che hanno ucciso il pericoloso terrorista? Questo è uno dei punti fondamentali, al di là, diciamo, di quello, del, di quello che ha passato questo terrorista, di dove è andato, che è una follia naturalmente, ma poi ne parleremo. Ma è normale? Allora, sentite Minniti innanzitutto. Nel momento in cui è stato fermato, l'uomo senza esitare ha sparato nei confronti dell'agente di polizia che gli aveva chiesto i documenti per l'identificazione. L'agente si chiama Cristian Movio. Immediatamente la pattuglia ha reagito al fuoco. E poi subito dopo il nome dell'altro agente, quello che poi ha sparato e lo ha ucciso. La pattuglia era composta oltre che dal agente Movio, dall'agente scelto Scatà, Luca, che è rimasto illeso. Allora ragazzi, cioè a me non mi pare normale. Dite quello che volete, ma a me non pare normale. In altri paesi i nomi di chi uccide un terrorista vengono tenuti segreti per anni, eccetera eccetera. Subito volti, eccetera. E infatti ci sono proteste. Però mi pare che siano stati anche loro stessi a farsi le foto, no, a diffondere, ma non è che è stato. Ci vuole un controllo generale. Certo che hanno fatto le foto in ospedale con gli agenti, con gli amici, ma è una follia, ma è una baracconata. C'è una smargiassata spaventosa. Cioè, anche perché, ti dico una cosa, anche perché. Sì, sulla sicurezza, no, ma anche perché, sulla dico, sicurezza dei due hai perfettamente ragione. Il secondo questore, me un po'. No, ma senti, sì, il questore, praticamente il questore, in contemporanea, il questore credo di Milano, no? Di che è il questore? Dopo, sì, sì, era di poco Milano. Dopo. Allora, il capopattuglia è un agente scelto. È un agente scelto che è esperto in controllo del territorio. L'autista è un agente in prova. Non vi diamo i nomi, né, ve lo dico, possiamo favorire l'incontro, almeno in questa fase, con gli operatori, sia perché la gente è adesso sottoposto a tutela. Non vi diamo i nomi, cioè un'ora almeno dopo. Almeno in questa fase, ragazzi, però, dai, ho detto, su, almeno in questa, no, fase. No, ma un'ora dopo. Però sì, un'ora dopo. Cioè il ministro degli interni dà i nomi e il questore di Milano, ma mettetevi d'accordo, amico mio. Avete deciso di rivelare i nomi, follia. Mettetevi d'accordo, il questore e il ministro degli interni. Dicono due cose diverse. Il ministro degli interni dice nome e cognome di questi due signori e il questore dice non vi diamo i nomi un'ora dopo, quando i nomi sono già sull'agenzia di stampa. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma è una roba ridicola. È ridicolo, diciamolo subito, è ridicolo. Poi un'altra cosa, vabbè, a parte l'eroismo, no? I due agenti, per carità, bravissimi a reagire, ma è il loro mestiere, ma va bene anche un pizzico, no? Di, anche di, e di, come si dice, di chiacchiere, di parole elogiative, di patriottismo in questi casi, va bene tutto. Ma senti una cosa, Minniti dice parla così, scandisce per no, il no, Minniti. No, aspetta Minniti dice una cosa molto semplice, dice praticamente che è la prova che l'Italia è un paese sicuro, cioè è la prova che l'Italia è un paese, senti garantire un livello così elevato di controllo del territorio che consente, nella imminenza di un ingresso nel nostro paese di una persona che è stata in fuga per gran parte dell'Europa, identificarlo e neutralizzarlo vuol dire che c'è un sistema che è capace di funzionare. Allora, lo stesso questore, praticamente, ripeto, in contemporanea, un'ora dopo, dice che c'è anche la fortuna. Sì, no, c'è la fortuna. Vabbè, certo, quello è, ma, certo. Capito, amico mio. Ma non c'è nessun sistema che funziona, questo è entrato. No, questo, aspetta, questo è entrato. Ma non c'è entrato, alle 3 di notte c'è un controllo casuale. C'è un controllo casuale alle 3 di notte. No, vuol dire che ci sono tante pattuglie sul territorio e c'è un controllo, sì, del territorio. Vabbè, questo almeno capito, vuol dire. Sì. Vabbè, sì, per vabbè, carità, va benissimo, certo. Questo è vero che c'è, un controllo del territorio, almeno una presenza. Vabbè, le vedi, senti, a Roma, io la vedo la polizia in giro per la città, dappertutto, la vedo. Il solo fatto che abbiano operato due agenti di polizia può sembrare inverosimile, però è frutto di una intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di un po' di fortuna. Vabbè ragazzi, la cosa più incredibile del mondo è che questo signore che è stato ucciso non è mai stato espulso, e quando è stato espulso nessuno ha messo in pratica le espulsioni, si era dichiarato profugo perseguitato dall'Egitto, e questa è la dimostrazione che la maggior parte delle persone che vengono qui, la stragrande maggioranza, non sono profughi perseguitati nella maniera più assoluta. Questo qua a un certo punto si era inventato, in una delle sue diverse identità in Germania, si era inventato che era perseguitato in Egitto. Ovviamente non era perseguitato in Egitto perché era tunisino. In Italia è stato 4 anni in prigione, 4 anni a spese nostre in prigione, ovviamente. Dopo una rivolta nel carcere, nel centro di identificazione di Lampedusa. Vabbè, insomma, abbiamo accolto questo tizio. È un criminale, un bandito, un assassino, tutto quello che vuoi. Non funziona un cazzo. Le identificazioni, le espulsioni, non funziona nulla. In tutta Europa, quello è andato a Berlino e nessuno gli ha trasmesso alla Germania chi è la fedina penale di questo signore qui. Dai, ma frega niente a me. Ma allora cacciate tutti a calci nel culo. Ma frega niente sta gente. Ed ora Donald Traffico. La Zanzara. Ragazzi, comunque la barzelletta è incredibile. Solamente dopo ore sembra che siano stati oscurati da parte della polizia, delle forze dell'ordine, i profili Facebook di questi due poliziotti. A parte che secondo me dovrebbero tenerli aperti, magari c'è qualcuno che insulta e viene identificato e punito. Sono stati oscurati i profili Facebook. Ma che cazzo serve oscurare i profili Facebook? Ormai hai mostrato al mondo i volti, anche ai terroristi che sono in tutto il mondo, i volti. Dove abitano, dove non abitano. Ha parlato il padre, ha parlato la madre, hanno parlato i figli, hanno parlato hanno parlato i nipoti, hanno parlato i parenti. È un eroe, ha fatto che naturalmente è giusto, per carità, va benissimo. L'orgoglio di un parente perché quella ha ammazzato un terrorista, il poliziotto trasferito da Siracusa al nord, sì, e l'altro poliziotto da Pordenone, va tutto bene. Ma i nomi li devi tenere segreti, devi oscurare tutto, devi blindare tutto. Questi hanno ammazzato un terrorista, e dai, su, ma è così difficile. Io veramente... Mi è sfuggita di mano subito. Dai, ma anche allora, ma evidentemente, siccome non si sono resi conto subito alle 3 del mattino cosa avevano fatto, e non hanno controllato bene. Pasticcio, dai, pasticcio. Allora, Stefano da Milano, vai Stefano, cominciamo, vai. Stefano. Eccoci, buonasera. Dimmi, dai. Ma nella migliore delle ipotesi, io auguro a questi ragazzi di godersi un momento di celebrità, di gloria, che lo meritano, ai due poliziotti. Però, secondo me, fra 3 giorni, 4 giorni, quando si chiuderanno, si spegneranno i riflettori, nella migliore delle ipotesi, si dovranno pagare l'avvocato e andare sotto processo. No, ma questa è una stronzata, ragazzi. Sicuro, scusate la parola. No, questa mi sembra una stronzata. Mamma mia, ragazzi. Intanto il processo lo faranno. Ma chi è che chiederà conto? Ha già mangiato troppi panettoni, questo qui. Ancora prima dell'inizio della festa, ha già mangiato troppi panettoni. Il glucosio è andato al cervello e è finita. E comunque, nella peggiore delle ipotesi, verranno messo sotto scorta. Beh, tolto le parole di bocca prima, perché comunque... Sono poliziotti che scorta devono avere, c'hanno già... Li metteranno sotto scorta. Ma non lo so, probabilmente non faranno più i poliziotti o li metteranno a fare qualche altra cosa. Non lo so se la cosa è seria. Se pensano che questo terrorista sia un pazzo isolato, no. Ma certo, comunque, mostrare il loro nome o dire il loro nome, mostrare il loro volto a tutto il mondo è una buffonata, secondo me. La prima ipotesi, ne parliamo fra un mese quando si spegneranno i riflettori. Ma no, ma dai, ma come fai a pensare a una cosa del genere? Sicuro, dai. Si dovranno pagare l'avvocato. Ma quale avvocato? Questo è un terrorista che ha tirato fuori non la pistola. Non diciamo minchiate, per cortesia. Su, questo non credo. Non diciamo minchiate. Quando fanno gli incidenti che sono in sirena, non si devono pagare le macchine. No, vabbè, ma quello, ma... E non sono un poliziotto, per l'amor di Dio. Va bene, però... Claudio da Roma, vai Claudio. Claudio, Cruciani. Dimmi Claudio. Cruciani. Dimmi. Ciao Cruciani, io parlo con te, con l'altro proprio non ci voglio. Sono d'accordo, reciproco. Mi fa guadagnare un po' di tempo, allora, per fortuna. Cruciani, io sono un ex ispettore di polizia. Ottimo, sono molto contento di non dover parlare con questo qua. Benissimo, ottimo, sono contento. Ti ho detto di parlare con me, io non ti ho detto. Sono di molto felice con me. Sono felice. Calma. Claudio, che mi vuoi dire? Scusa. Sono felice. Praticamente le mie mansioni sono sempre state la Digos antiterrorismo e quant'altro. Questo qui ve lo dico io in gergo tecnico. Questo di noi qui poliziotti. Chi? Quindi quello che è il fatto che è successo questa notte, in gergo nostro di poliziotti, è il colpo di culo. Chiamato sì, colpo questo è di chiaro. Culo. Questo l'hanno sì, detto anche loro. Colpo di culo. Non c'è, cioè qualcuno... questi due hanno avuto una botta di culo, anche se potevano certo, crepare. Potevano una crepare. Botta di culo, una botta di culo. Hanno fatto un controllo andato... e gli è capitato quello, no. Certo. Controlli proprio così, è andata a sbattere contro il muro, praticamente. Vabbè, allora? Che vuol dire? Andava a sbattere contro il muro il terrorista, lui dice. Vabbè. Sì, ho capito, ma che vuol dire? Sì. No, lui dice che è stato un caso, dai, su, dai. Sì, è stato un caso, il colpo di culo, che è andato bene per tutti, è andato bene anche come è finito, come, perché questo lo sappiamo. Sì, ma dipende dal fatto che i controlli li fanno, vuol dire, lei dovrebbe essere contenta. Cioè, visto che alle 3 di notte ci sia una pattuglia in giro. Tu dici, bravo, questo dico, ma è una cosa ovvia, banale, cioè il fatto che i controlli vabbè, li facciano. Nessuno mette in dubbio che ci siano, che non ci siano. La cosa vergognosa, discutere di tutto, è quella che un ministro, ministro dell'interno che ha avuto anche funzioni, che ha fatto anche funzioni di capo dei servizi segreti, sì, si abbia dato abbia dato a fonti giornalistiche che fonti giornalistiche, ha fatto la conferenza stampa, amico mio, ha fatto una conferenza stampa, dice nome, cognome, numero di scarpa, la taglia dei vestiti. Ma è una cosa proprio, cioè, almeno noi poliziotti una cosa del genere c'è, cioè, proprio non ce la meritiamo comunque. Questo qui, sai il film I Mostri, vi ricordate il film I Mostri? Ecco, adesso lì tutti si vogliono prendere meriti che non hanno. Voi perché ci sono state tu le dici nomine, una botta le di nomine. Tu dici una botta di culo e Minniti si è comportato come secondo te, da? Da sciacallo, proprio sciacallo. Vabbè, però voglio dire, sciacallo, ha fatto la conferenza stampa. Tu dici che dare i nomi è una cosa. Ma non esiste proprio. Guarda, non è mai successo questo, Cruciani. Non è mai successo, specialmente notizie in notizie importanti mediatiche. Poi dopo, credimi, per quello che riguarda la mia. Diciamo le mie esperienze, quello lì è tutta una cagata. Cioè, che cosa? Un cagata? Terrorista che sia veramente lui il terrorista che abbia. Cioè, lasciato, non ci credi? Vabbè, adesso, non come cazzo ci fai? Credo per niente. No, non ci credo perché non sono un complottista, per carità, però. Parlo per, cioè, è troppo facile, dice, un terrorista non troppo, si fa beccare così troppo, facilmente alle 3 di notte. Troppo, va bene, facile, ciao, Mario Cremona, vai, facile, Mario. Ciao. Mario, sì, sì. No, ma una cosa, io è da stamattina che mi crucio di questa cosa, magari può sembrare ovvia, ma io dico, premesso che ovviamente questi qua ogni volta che fanno un attentato si dimenticano il documento in macchina o altrimenti sul camion, in questo caso addirittura il documento. No, è la cosa allucinante che con un mandato di cattura internazionale questo qua si è smaterializzato dalla Germania e si è trovato improvvisamente a Sesto San Giovanni. Cioè, la cosa che comunque ci si possa spostare così tranquillamente dopo un fatto del genere, anche è chiaro che una delle domande è questa: come mai ricercato numero uno in Europa si mette in viaggio, capisci, cioè, e percorre 1500 chilometri? I cittadini hanno fatto un po' una cazzata, cioè, ma lascia perdere la Germania, è andato pure in Francia, non è sì, quello, esatto, bravissimo, peggio ancora, cioè, quindi voglio dire, non lo so, mi sembra tutto. Vabbè, Stefano molto... Monza, vai Stefano. Sì, pronto. Vai. Allora, sarà anche un colpo di culo, no? Però sì, due bravi poliziotti alle 3 di notte, invece di essere al bar a bere il caffè, esatto, hanno messo fuori gioco un pericoloso terrorista. Bravissimo. Cioè, questo quindi non io inviterei, no, ma infatti il punto io inviterei i giornali pesantemente a chiedere al governo di Berlino di pagare quanto hanno promesso, cioè 100.000 euro per ogni persona che permetteva la cattura del cioè cittadino. La famosa taglia, dici? La famosa taglia. Vabbè, gliela daranno, questi l'hanno cioè l'hanno ammazzato, magari il governo non so se gliela danno. Io manco mi ricordavo che c'era una taglia, che c'era una taglia, capito? Avevano messo... bisogna ricordarlo. Per informazioni. No, ci sono di parola almeno questa volta. Una taglia non mi pare. No, non per le informazioni forse. Ma chiamiamola come. Sì, come per le informazioni forse c'era. Ma chi è che c'ha fa sto rumore del telefonino? Tu? No, io ce l'ho spento. Riccardo, chiedi, dai, Riccardo. Riccardo? Pronto? Dimmi, Riccardo, dimmi. Pronto? E volevo chiedere una cosa a Cruciani ieri. Sì, dimmi. Però Cruciani mi lasciar parlare. E no, sì. Pardon, Cruciani, lo devo chiedere a Parenzo. Però Parenzo mi deve lasciar parlare. Non lo devo Riccardo, ma prima di parlare già cominci a fare le tue... Perché mi immagino la reazione di Parenzo. Ma dipende allora, quello che dici, amico mio, dai. Forza, vorrei coraggio. Vorrei sapere la posizione di Parenzo su all'interno di questa trasmissione. Qual è una posizione chiaramente di provocatore. Ma il suo ruolo è... La gente diciamo provocatore, come Cossiga. Come Cossiga. In pratica il personaggio che una volta nei vecchi Luna Park era il clown che metteva la testa in un buco nel muro, i ragazzini tre palle un soldo. Io non so dove metta la testa lei, ma lo possiamo immaginare tutti. Mi deve lasciar parlare. Sì, no, ma io lo faccio parlare. Io ho detto solo che non so dove. Sa dove mette la testa lei. Ma lei quando si fa il shampoo, lei dove se lo fa? Nel water? Lei per ragioni sue lo shampoo lo fa nel water, lei immagino. Ma finisca, però mi risponda. Ma che ti frega te? Voglio sapere dove fa lo shampoo sto signore, nel water lo nel fa. Cesso lo fa. Ah, cioè. Ecco, appunto, non mi sembrava. Cruciani, il mio ragazzo ha detto che mi voleva chiamare, ma poi si è ricordato che stavo ascoltando la Zanzara e non l'ha fatto. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital. La Zanzara. Spiagge delle Filippine, 30 gradi, sole, birra e podcast della Zanzara. Allora ragazzi, tutto questo delirio, c'è da sottolineare una cosa. C'è una politica, diciamo, minore, un consigliere comunale dei 5 stelle, dei 5 stars, caro sì, Parenzo, sì. In quel di Biella, in quel di Biella, Biella questa sì. signora che si chiama Antonella Buscaglia. Buscaglia, sì. Questa signora che si chiama Antonella Buscaglia sostanzialmente ha detto che gli agenti hanno compiuto un omicidio. Cioè, cosa ha scritto questa Buscaglia? Non ho capito, scusami di grazia, non ho capito cosa allora, ha detto questa. Leggo post sì. di persone felici che un uomo sia stato ammazzato. Leggo post di persone che esaltano i due poliziotti che hanno fatto soltanto il loro dovere. Soltanto il loro dovere. Vedrò di certo queste persone andare a messa alla vigilia e ricevere mi piace al post da altrettanti falsi che godono di un'uccisione e si lavano le coscienze in chiesa. Oggi sono straincazzata, ma vaffanculo. Antonella Buscaglia, 5 stars. Una uccisione, godere di un'uccisione. Beh, amica mia, cari grillini, io godo. Non c'è che da godere quando viene ammazzato qualcuno che è un terrorista. Non è da godere, insomma. Ma sì, si gode, si gode. Un terrorista in meno. Cioè... No, ma uno gode quando viene ammazzato qualcuno. Quando ammazzano i terroristi, quelli che tu consideri terroristi in Palestina o da altre parti, caro Parenzo, sei contento quando ammazzano un contento, terrorista? Sei contento. L'ebraismo ti insegna a non gioire mai quando muoiono i nemici. Questo ti insegna l'ebraismo. Ma non è che uno quindi... è scontento. Questo però... qua, pistola in mano, gli agenti che ti fermano. Questo era pronto a sparare. Beh, sarebbe stato bello vederlo. Non era possibile ovviamente vederlo catturato. Sarebbe stato molto bello oggettivamente. Sì, catturato, sì, certo. Processato, sbattuto in galera, in però, isolamento. Però d'altra parte però, se è stato ammazzato, certo non piango per la morte di una persona. Cioè non è che si può piangere sempre per la morte di una persona. No, non si piange sempre. No, per i criminali nazisti nessuno di noi ha versato una lacrima. Ma non sono è questione anzi, solo di criminali nazisti. No, cioè, no, ma dico anche i fondamentalisti islamici. Un terrorista ovviamente. In fuga viene non c'è dubbio. Mettiamo che sia successo così. Mettiamo che sia avvenuto come ce lo raccontano. Cioè questo qua in fuga, no, eccetera, non cominciare eccetera. Anche tu no, a fare la Giulietto Chiesa. Ho detto mettiamo no, che no, non cominciare. No, ho detto mettiamo che tutto è accaduto come ce lo raccontano. Come deve essere accaduto, una scusami. Grande fuga, eccetera, eccetera. Questo che alle 3 di notte un latitante, eccetera, viene fermato casualmente da una pattuglia e viene ammazzato urlando, tra l'altro, oltre all'Alcobar, all'inizio ha detto, sai che ha detto, questo è curioso. Sono calabrese. Ma come mai ha detto sono calabrese? So, questo è curioso, vede, pure sta cosa. Si vede che anche lì gli è arrivato. No, ma come mai ha detto io sono forse calabrese? Perché gli avevano, siccome i calabresi hanno magari la pelle un po' più scura, hanno la pelle più olivastra. Ma perché è proprio forse, calabrese? Ma non lo so, cioè, mica una cosa mi chiedi, non lo so. No, ma è curioso, ha detto sono sì, calabrese. È, vero, è curioso, cioè, è curioso, è curioso. A me mi ha fatto ridere da morire in questa drammatica. Sono Mauro da Mantova, poteva dire. No, ma che c'entra? Vuol dire che non ascoltava la Zanzara, quello lì. No, poteva dire no, no, sono tornato da Varese, per dire che è un antislamico, no? In tutto le... questo, in tutto questo, dai, su, non dai. È possibile, dai. Vabbè, ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Latina, Roberto, vai. Sì, ciao Giuseppe, Lorenzo, buonasera. Buonasera. Niente, io volevo sottolineare un fatto. Questo sta diventando veramente un paese di merda. Perché? Nel senso, che è successo? Scusami, se questo terrorista veniva beccato dalla polizia federale svizzera, tutti a dire bravissimi gli svizzeri, lo becchiamo noi, botta di culo. Casualmente. Cioè, voglio dire, non va mai bene un cazzo. Però se una lo botta prendevamo di culo, prima. Dai, però oggettivamente è una botta di culo, dai, su. Ma arriva no, qua. Ma non l'abbiamo individuato, se non casualmente, perché no, quello, una pattuglia ferma uno, gli chiede i documenti e quello dice sono calabrese e poi tira fuori la pistola. Ma i terroristi rossi sul treno come l'abbiamo beccato? Ma sì, ma certamente anche per bravo, caso, anche bravo, quello. Certo. Bravo, bravo. Ma va bene. Ma noi facciamo così, usiamo fare un grande controllo del territorio, poi con l'intelligence qualche volta ci becchiamo pure. Però voglio dire... No, ma nessuno... Volta, non dico applausi, però... ma nessuno dice che non sono stati bravi quei poliziotti che lo hanno fermato. Nessuno dice che non c'è che c'è stato un buon controllo del territorio, sicuramente. Però ha detto prima un altro ex poliziotto che ci ha chiamato, è chiaramente una botta di culo. Ma va bene anche questo. Ma... uno dovrebbe preoccuparsi del fatto che questo qua fa 1500 km entrando anche in Italia, peraltro. Beh, scusami, tu ricordi Italia... l'arresto del terrorista Nadia Desdemona lì 8 anni fa? Ha fallito completamente. Sì, per caso in treno, ma quello è bravo. È Nadia Desdemona Lioce. Sono italiani. Sì, no, d'accordo, ma per dirti, fu arrestata un agente bravissimo della Polfer che stava è bravo, esatto. Rimase ferito, ma stava facendo un controllo, un pattugliamento, documenti, poi siccome documenti e aveva anche la foto di segnaletica di questa qui, tra le foto segnalettiche. Roberto ancora, fammi sentire quindi, Roberto d'ancora, vai. Andato. Roberto. Ciao Giuseppe. Dimmi. Volevo inserire un elemento di discussione che tu, come essendo intelligente caustico, non ho sentito. Cioè? Come mai nessun giudice ha alzato il dito per incriminare questi agenti bravissimi eroi per eccesso colposo di legittima difesa? Ci sono decine di loro colleghi e decine di cittadini che hanno fatto la stessa cosa e sono stati incriminati, ci hanno rimesso penalmente e civilmente. Vabbè, scusami, però abbi pazienza, perché dovrebbero essere incriminati? Non credo che tu te lo auguri, no? Non devono essere incriminati. Ma non mai. Saranno incriminati, che vuol dire? Tu dici che in altri casi, in altri ma questo casi c'ha... sono stati, ma non è vero, perché questo qua ci aveva fare i bravi, i nostri bravi tromboni politici. No, nessuno no. Si permette di dire che questi hanno sbagliato. Ma sono diversi, allora, è un caso diverso, dai. Eroi, ma sono tutti eroi e sono tutti bravissimi. Niente, come il palio, dai, il palio dell'asino su. No, però c'è da dire una cosa. Ha vinto, non si preoccupi, che ha vinto il palo dell'asino, l'ha vinto lei, non si preoccupi, eh. No, Roberto dice che in casi analoghi, quando non c'è un terrorista di mezzo, in casi analoghi, esatto. Quando non c'è un terrorista di mezzo. Se fosse stato un tossico, se fosse stato se uno tira, però c'aveva una pistola questo. Ha tirato due colpi e l'avessero ammazzato. Capito, una pistola questo. Andati in galera i poliziotti. Cioè, tu dici anche in presenza di uno di una pistola con una pistola che spara, se tu poi ammazzi comunque un processo lo fanno, tu dici. Certo. Certo, l'avrebbero comunque incriminati per eccesso colposo di legittima difesa, poi si vedeva. Siccome però hanno fatto. Non lo so, in presenza di una pistola. In presenza di una pistola, e quando pistola... si accerta l'identità di un terrorista ricercato, non dopo. Esiste questa. Ho detto. Che hanno sparato a ladri, sequestratori, eccetera, hanno passato dei guai, pur essendo stati colpiti a loro volta. Ne abbiamo fatto un caso, ne abbiamo sentito un caso, perché io vi ascolto sempre, poche settimane fa, di un poliziotto, tra l'altro, se non mi ricordo male, proprio un marchigiano. Che pur essendo stato colpito e ha risposto ai colpi, ha per errore di rimbalzo ammazzato un albanese e ci ha rimesso di tutto, civilmente e penalmente, ve lo ricordate? Ho capito. Enrico Ravenna, vai. Ciao, buonasera. Dimmi. Siccome l'Italia è ormai è diventata la nazione del polemico. Che cos'hai? Un viva voce? Che cos'hai? Gli auricolari, che c'hai? No, telefono normale. Vai, dimmi. Non ho neanche la, la radio. Vai, vai, vai. No, siccome diciamo, l'Italia è diventata la nazione delle polemiche, giustamente, volevo mettere un po' di pepe anch'io. Sì, vai, vai, forza. Come mai di notte ci troviamo un agente scelto e un agente in prova? Per fortuna è andata bene. So. No, tu dici, tu dici che l'agente in prova di notte non si mette alle 3 di notte, è in prova anche per quello. Adesso io non lo so quali siano i regolamenti della polizia da questo punto di vista. Tu dici è assurdo mettere un agente in prova di notte alle 3 di notte, ma scusa, ma la prova su che cosa la deve fare anche andando di notte, no? Cioè, certo, in teoria. Però ci vuole anche alle 3 di notte a Sesto San Giovanni. Io adesso non lo so, questo qua i regolamenti non... L'unica polemica di oggi è questa sui nomi. Ragazzi, che è una polemica reale. Quella è una cosa che non esiste, quella è una cosa che non è mai esistita. Angelo da Pisa, vai, Angelo Pisa. Pronto, Cruciani? Dimmi. Ma l'Imbelvito che fine ha fatto? L'Imbelvito da Pisa, che cazzo? Ti ricordi l'Imbelvito? Vai. Volevo dire, no, ma volevi dire, sì, praticamente volevi. Poi ci hanno raccontato le favoline che da balconi non arrivavano i terroristi, era impossibile di qua di là. Lui, questo tunisino, è venuto col balcone, è stato a Lampedusa, ha fatto tutto il processo come fanno tutti, ha fatto un casino dell'altro mondo lì a Lampedusa e non l'hanno rimandato in Tunisia, ma l'hanno lasciato libero così. Cioè anche quella storia lì. Amico mio, sì, ma certo che arrivano pure con i barconi. Chi ha detto che non arrivano con i barconi? Questo qua ha fatto 4 anni di galera in Italia. La cosa incredibile è che in realtà Italia ed Europa sono, da questo punto di vista, un mezzo colabrodo. Questo è il punto fondamentale. Ma dai, poi hanno bruciato tutti quelli che hanno bruciato, che bruciano il centro d'accoglienza. Là. Non l'hanno mica rimandati via. No, prima in galera, poi l'hanno espulso, ma questo qua in realtà con l'espulsione ci si è pulito il culo. Ci si è pulito il culo con l'espulsione. Questa è la realtà dei fatti. Purtroppo non funziona così. Purtroppo non funziona così. Alessandro Pistoia, vai. Eccomi, grazie. Dimmi. Sono un collega pubblicista. Guarda, qui a provincia di Pistoia è una costante quella del fatto di poter far uscire i nomi come con questa imprecisione, questa mancanza di professionalità, di competenza, è una costante delle amministrazioni. Non ho capito, spiegami che è successo. Ma guarda, qui ad Agliana, nel mio comune, sono stati pubblicati dei decreti di consegna delle armi agli agenti di polizia municipale, pubblicando il nome, l'indirizzo di residenza, e questi hanno azionato una vertenza di fronte al giudice civile e si sono fatti liquidare dei risarcimenti, credo di 1.000 euro a testa, fra l'altro una cosa che è di 3 anni fa. Quindi ti voglio dire, è un atteggiamento di scarsa professionalità, di incompetenza, che purtroppo contraddistingue certe amministrazioni, in questo caso di sinistra, e il governo non è un caso. La realtà è che ci sono, ho capito benissimo, Marco da Milano, ottimo, bravo. C'era pure, pare, una circolare del capo della polizia che diceva di prestare massima attenzione per la possibilità di eventuali azioni ritorsive nei confronti delle forze dell'ordine, eccetera. Fatto sta che da stamattina i volti, anche per loro volontà, credo, i volti, i nomi, i parenti di questi due signori che hanno ammazzato il terrorista sono in circolazione in tutto il mondo. Voi pensate, è normale? Io non lo so, io credo che non sia normale. Marco? Allora, io proprio di quello volevo parlare. Non ho sentito tutta la trasmissione. Vabbè, uguale, dai, vai. Ha detto che chi ha dato quei nomi è una testa di cazzo. Se non l'ha detto qualcuno altro, te lo dico io. Io credo che i nomi li abbia dati il ministro dell'interno oggi nella conferenza stampa. Forse erano circolati allora, anche prima. Il ministro dell'interno si deve levare dai coglioni. Ecco, si deve è arrivato al posto secondo del palio degli asini di oggi. È arrivato. Avrà il diritto di dire che secondo lui si deve togliere dai coglioni il ministro dell'interno? Ma no, sì, ma è ovvio che ha il diritto. Che discorso è? Dico te lo dico da comunista. Una volta tanto che questa trasmissione di merda parlare di una cosa seria, c'è a te conseguenti. E la tua vita quello com'è? Quello è un deficiente. La tua vita com'è? È un deficiente, non fa il ministro. No, ma la tua vita com'è? Bisogna ringraziare quel maggiordomo Lachele Capiedi che c'era prima, che se la polizia funziona ci avrà più merito quello di prima, che mi sta sui coglioni. Perché io sono comunista. Ma che vuol dire essere comunista poi? Questo imbecille che va in giro. Ma che vuol dire essere comunista poi? Spiegami. Che vuol dire sono comunista? Non esiste più, i comunisti non esistono più. No, tu non esisti più, io esisto ancora. Ma i comunisti non esistono più, sono dei cialtroni, cioè una cialtronaggine. No, tua sorella è una cialtrona, io ci credo. Nel comunismo. Vadano ringraziati perché poliziotti difendono la povera gente. Tu credi nel comunismo? Sì, credo che le persone più sfortunate vanno difese, vanno difese dai poliziotti. E questo che vuol dire? E i poliziotti che lo fanno, fanno bene il loro mestiere, vanno ringraziati, gli va data solidarietà, non vanno sbattuti col nome in prima pagina a rischio che poi qualche disgraziato cerchi di fargli del aspetta male. Aspetta un attimo, fermo lì. Ho 26 anni e non ho mai avuto una dipendenza. Da qualche anno però non posso fare a meno della zanzara. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento la zanzara. Del fatto che sono stati diffusi i nomi degli agenti, Parenzo, c'è chi mi scrive, ragazzi, però essendo stata una cosa casuale, prima o poi i nomi sarebbero usciti, esatto, cioè prima o poi sarebbero comunque usciti perché i giornalisti cominciano a chiedere, a indagare, eccetera. Io dico semplicemente che non c'è stata protezione. Cioè, da questo punto di vista, appena accertato che quello era il terrorista, amico mio. No, ma sai, io capisco la polemica, fai bene a farla, ci può stare anche. Però la casualità ha fatto sì che, diciamo, dalle 3 del mattino fino alle 8, non so quando è stata l'identificazione. Beh, ho capito, però il ministro, i nomi sono usciti per bocca del ministro degli interni alle 11 di mattina. Perché almeno si vede che comunque non è che le ha diffusi lui, però. Beh, come no, certo, li ha diffusi lui. Per si primo li ha diffusi, però, lui. Però già dalla questura di Sesto, evidentemente, o da dove io loro. Capito, ragazzi, ma non c'è stata protezione da questo punto di vista, cioè non c'è stata un'operazione subito di... Non c'è stata un'operazione subito di copertura, quello certamente, dai, però non è che il ministro li ha diffusi, ormai erano fuori, quindi li ha ringraziati Mustafa pubblicamente. Mustafa Modena, Marco da Milano ancora, il comunista, quello che dice di essere comunista, Marco da Milano. Che mancava un comunista, il cioè comunista. Le puttane leghiste, ma i comunisti non li avevi ancora. No, come beh, no, ci pieno, sono i comunisti. Pieno. Purtroppo è ancora pieno di comunisti. Purtroppo. Di gente. Sì, magari venivano fuori lo stesso i nomi, ma il ministro non li deve dire se li ha detti lui, io non l'ho sentito, ma se li ha detti lui, fuori dai coglioni. Sì, no, ma l'ha detto, come no? Certo. E allora fuori dai coglioni. E allora, perché non si può chiedere le dimissioni a quell'altro cretino che parla dei ragazzi che vanno all'estero e non a questo che fa una cazzata grande cosa. Ripeto, allora, molti dicono Minniti si dimetta, il ministro è stato per primo, lo dicono tutti, il ministro per primo ha svelato l'identità, ma la cosa incredibile è che in contemporanea, un'ora dopo, pochi minuti dopo, il questore dice io non dico i nomi, almeno mettetevi d'accordo. Cioè, riveliamo i nomi perché tanto è successo casualmente e sarebbero usciti fuori lo stesso. Dai, su. Mustafa, signor Mustafa da Modena, Mustafa. Sì, sono io, pronto, buonasera. Dimmi, Mustafa, dimmi. Niente, io ho telefonato per un motivo semplice. Sì? Visto che io sono datato... Può essere islamico? Eccolo qua, che gli parla subito così. No, ascolta, io parlo forse un pochino meglio l'italiano. Bravo, bravo. Tu essere islam? Che... Tu venire da islam? Essere? Tu venire allora, da islam? Islam è una religione, allora. Non è un paese. Ma guarda, ragazzi, allora, non parlare a sto poveretto. No, dai, ma lascialo parlare perché... Ma sto scherzando, dai. Tu mangia couscous? Tu mangia couscous o polenta? Ma dai, ma come si va a dire così alla gente? Dai, ma ragazzi, Mustafa, dimmi, allora, Mustafa, dimmi. Allora, non perdiamo il tempo neanche su nel mio, visto che lei anche deve intervenire altre persone. L'unica cosa che io non riesco a... Non riesco a capire, ma non si controllano i profughi, quelli che vanno dalla Francia all'Italia, che lo buttano giù, poi lo tornano indietro. Come mai questo qua, che aveva era anche rinunciato come terrorista, con la foto in tutto il giornale, non è stato neanche controllato? Ma perché non ci sono le frontiere, amico mio? Cioè, non ci sono, no, non stiamo... no. Le frontiere ci sono lo stesso. Ma no, perché ma quando... si può passare tranquillamente in tanti posti senza che ti veda nessuno. Non mi spiega che non posso comunque passare, certo, è ridicolo il fatto che uno super ricercato possa fare 1500 km. Ma 1000 km senza ne ha fermate neanche e questo cosa ti porta a pensare? A me mi porta che l'Italia è un paese molto, molto controllato e fanno bene perché hanno fatto un bel controllo. Quando si ferma a chiedere anche i documenti di una persona qualunque. Sì, ma ragazzi, è un caso alle 3 di notte, non, un caso vabbè, alle 3 di notte. Potrebbe essere un caso, ma hanno controllato una persona. Posso dirlo? Allora? Sì, certo, meno male che controllano una persona. Meno male che controllano. Io ringrazio il dottor, io sono cittadino italiano, ma sono di origine. va controllati, ma non puoi lasciare... Ma da questo punto di vista dobbiamo dire che le forze dell'ordine funzionano invece, vabbè, scusa, è esattamente la stessa cosa contraria. Io sono stato una settimana in Belgio così per vacanza, ma non controllo niente, ma anche se la persona ha fatto una frazione, le parlano con l'autoparlante nella macchina, cioè il poliziotto non siede neanche giù. Vabbè, Daniele Bologna, vai, Daniele. Buonasera. Dimmi. Io telefonavo per porvi una domanda che mi sono perso in questi giorni. Come mai in Italia non sono mai successi degli attentati? Non lo so, Ezio da Pescara, non lo so. Ezio, non lo so, non ti posso dare una risposta. Questa è una trasmissione, non si possono dare risposte di questo tipo. Ezio da Pescara, dai. Sì, buonasera. Dimmi. Grazie per... Io vorrei dare tutto il mio disprezzo per quell'animale che hanno ammazzato. E io faccio un appello ai cittadini di Sesto San Giovanni di andare sul posto dove è morto questo maiale e gettare monnezza, come hanno fatto a Nizza. Quindi spazzatura. No, calmati, ragazzo. Ragazzo, lo dica sua sorella. Dove è caduto questo maiale? Ma questo cosa... Questo perché, a cosa serve questo? Serve come reazione a mettere spazzatura sull'asfalto dove è morto il terrorista. Disprezzo verso questa persona. I cittadini francesi hanno fatto così a Nizza. Vabbè, hanno riempito quell'angolo di strada lurido della morte di quel maiale con la spazzatura. Dobbiamo fare anche noi così. E qua da finita, Parezzo. Serve. Allora, che serve Parezzo, molto. Scusa, che c'entra Parezzo? No, ma lascialo sfogare, perché, poveretto. Non ho capito, perché Parezzo è alleato di quello che è morto, secondo te? No, Parenzo fa il corvo sulla pianta che fa... No, se mai faccio il cane così le posso urinare... È pagato per quello e basta. Sì. Ma non ho capito, scusa, spiegami. Niente. Comunque, allora, i cittadini di Sesto San Giovanni... Lo faranno senz'altro. Lo faranno senz'altro. Monnezza sul posto dove è morto quel maiale. Però, guarda, Ezio, ti voglio leggere quello che ha detto un deputato della Repubblica, che si chiama Massimo Corsaro, di Fratelli d'Italia. Certo. Siccome l'islamico pare che abbia detto in quel suo testamento video che voleva punire i mangiatori di maiale, che saremmo poi noi, ma anche se in realtà pare non abbia detto così, che ci voleva squartare come maiali, eccetera eccetera, signor Corsaro risponde in questo modo: bene, ora che si è servito direttamente, proporrei di cucinarlo con patate e rosmarino e poi darlo in pasto al canile. Tutta roba inutile. Signor Corsaro, un deputato, cioè io lo conosco, che cosa, ma tu a che serve sta roba? Dici mettere la spazzatura oppure cucinarlo, darlo in pasto al canile? La spazzatura lo dice sto ascoltatore qualunque, va benissimo, d'accordo. Ma che un deputato della Repubblica, che conosco peraltro, signor Corsaro, da tantissimi anni, dica che bisogna darlo in pasto al canile dopo averlo cucinato. Ma questo a cosa serve sta roba? Perché lui deve fare l'indignato più degli altri? Lui deve fare quello. A che serve questo disprezzo? Non per la vita di un terrorista, che ovviamente è un terrorista, ma a eccitare gli animi di chi? A cosa serve sta roba di dire cuciniamo il cadavere? A me fa solo schifo, che è una roba palpe, una cosa che non mi aspetto da un deputato, francamente. Carlo da Frosinone, vai, Carlo. Sicurati. Buonasera. Dimmi. Allora, sono pienamente d'accordo con quello che hai detto sul fatto che sono rimasto anch'io allibito che questi hanno dato questi nomi così alla mercé di tutti quanti, ma queste sboronate sono classiche nel nostro Stato. Premesso che, rifacendomi a qualche titolo del giornale di qualche giorno fa, del giornale, Libero, adesso non ricordo, dove dicevano Derrick è una pippa, io non starei tanto ad allargarmi così sugli allori di questi due, comunque hanno avuto una bella botta di culo, sia perché l'hanno presa, sia perché non si sono fatti male. Vabbè, sono botte di culo, saranno stati pure abili. Male si sono fatti male. Uno sta in ospedale. Ma scherziamo, io sono un fan delle forze dell'ordine, per cui lo sposo, ho capito, Carlo. Avranno avuto anche qualche la prontezza di riflessi e tutto. Ma non andavano messi a me, se qualcuno mi tira fuori. Ma i nomi, diciamo. Non andavano messi così. Va bene, Massimo Brescia, vai, Massimo. Non è vero che non si diceva che vengono con i barconi terroristi, lo diceva solo la Lega, e adesso è evidente, adesso questo è un solo terrorista la Lega. Com'è ed che dicevano? È venuto con solo i barconi, quindi solo prima lo diceva solo la Lega, solo adesso la Lega. Lo dice il telegiornale, okay? Quindi è un fatto evidente, arrivano i terroristi con i barconi, con buona pace di Parenzo, arrivano i terroristi con i barconi. Sommessamente, pena di morte. Per i terroristi. Io diceva anche negli anni 70. Dagli immigrati devono essere penalizzati due volte. Sommessamente. L'immigrato costa e quindi se commette un reato deve essere punito due volte. Sommessamente ricorderei che la biografia di questo terrorista, di tal Anis, inizia il 4 aprile del 2011 e diciamo che dal 2011 al 2017, al 2016, questo signore ne combina di cotte e di crude, ma quando arriva non è un radicale islamico fanatico, è semplice uno semplicemente un maledetto spiantato. Ho detto, è semplicemente uno spiantato che si è imbarcato anche lui, cacciato anche dal suo paese. Perché alberghi, le carceri sì. per loro sono degli alberghi, perché nei loro paesi gli fanno un culo così se fanno la metà di quello che le nostre carceri siano degli alberghi, lo dice lei, pippa tutte le denunzie che sono state fatte anche dall'Unione Europea. Lo dice lei che le nostre carceri sono degli alberghi, lo dice lei, non è vero, per come lei sa non è vero. Sono degli alberghi perché lei non sa come stanno ma là, che c'è? Loro vengono qui. Ma scusi, ma noi siamo infatti una democrazia evoluta per fortuna, che c'entra? Il suo modello è quello lì? Ma questo che è? Il terzo palio degli asini? È il terzo girone del palio degli asini Massimo, questo? Ma allora qual è la cosa? Tutti fuori dai coglioni, qual è la ricetta? Sì, la ricetta. Pene più severe, pene più severe qua. Per gli immigrati. Gli immigrati costano. Ma che vuol dire pene più severe? Allora, vuol dire trattamento diverso. Se una persona viene qua come turista e spende i suoi soldi e commette un reato, paga. Se una persona viene qua col barcone, si fa venire a prendere al largo delle coste libiche, dove semplicemente noi dobbiamo pagare la tratta. Poi viene introdotto in un campo di accoglienza e dà fuoco, rischiando di ammazzare altre persone, e ancora non si è radicalizzato, ancora non era radicalizzato. Dunque? E dà fuoco al campo d'accoglienza, io gli do la pena di morte. La pena di morte perché dai fuoco al campo d'accoglienza, amico mio? Perché è tentata strage, perché quella è tentata strage. Certo, se do fuoco a un campo di accoglienza, se lo faceva un italiano facevate le trasmissioni sul razzismo, sul nazismo, è vero o no? Facevamo un po' di trasmissioni, facciamo le trasmissioni. Ma il paragone qual è? Scusa Cruciani, questo qui cos'è? Ma quante pali degli asini? Ci sono 5, 3, pensavo fossero due gironi quello del palio degli asini. Asino, dice lui, asino. Il palio degli asini, questo è il palio degli asini, terzo candidato, Massimo. Eccolo qua, quello che abbiamo capito. Capito? Cruciani, siccome Parenzo, il tuo amichetto lì, sta in trasmissione con due o tre avvocati, l'ha detto spesso, io non voglio prendere... Io ho un collegio di difesa molto vasto, c'è avvocato Beve, tanta gente, vastissimo collegio di difesa. Che cosa diresti se no? Scusa, non ho capito. Che è un bastardo! Bene, mobilitate subito. Di italiano! Ecco qua, aspetta un attimo, che chiamiamo uno del collegio di difesa. Ma che c'entra? Chiamiamo Giovanni Benincasa. Ma perché vuol dire Giovanni Benincasa? La moglie, di Benincasa, adesso lo chiamo subito, la moglie di Benincasa, e attiviamo subito l'avvocato immediatamente. Cosa diresti? Benincasa, vediamo la moglie. Facciamo un'ipotesi, cosa diresti? Ecco qua, Giovanni, chiamiamo subito. Ciao Massimo. Che chiamiamo l'avvocato intanto. Allora ragazzi, abbiamo con noi, grande ritorno nell'ultima puntata dell'anno, Maurizio Bianconi, deputato della Repubblica. Buonasera a voi. Come andiamo, Bianconi? come sempre, andiamo tranquilli verso la rovina. Tranquilli verso il disastro, Altro ottimista. Senti Maurizio, ma che ti è sembrata di questa polemica che c'è sui nomi diffusi dei poliziotti? Cioè, a me sembra Mi sembra una io non è il mio mestiere, ma mi sembra una follia. Io so che quando arrestano la gente pericolosa gli mettono la roba nel viso per non farli vedere, non farli riconoscere. Sì. E qui invece si dice il nome e il cognome, insomma. Questo non è uno scherzo, papà. Anche se bisogna dire una verità, di solito si mette il cappuccio quando si fa un blitz che è preventivato. In questo caso tutto è avvenuto casualmente, magari non hanno controllato subito, non hanno subito protetto la scena, diciamo, no? Questo sì, sicuramente... sono stati imprudenti e intempestivi, insomma. Questi tengono famiglia. Io fossi loro non starei tranquillissimo. Purtroppo. No, no, ma infatti molti poliziotti sono incazzati per questo, molti che ci hanno chiamato. Ragione, com'è possibile? Com'è possibile che si è saputo subito tutto, i nomi delle famiglie, i dove abitano, dove non abitano, i volti, questi che parlano al telefono, il ministro dell'interno. Fa parte della saltoneria di questi giorni. Cioè tu dici che un esperto come Minniti fa un errore di questo tipo? Madonna, ma cioè, Minniti è veramente un addetto ai lavori e sembra incredibile che l'abbia fatto. Senti, cioè, una cosa, Minniti non è un uomo da non stimare per competenza, eppure era fatto. Senti, se l'avessi fatto Alfano mi sarei meravigliato di meno, capito? Sì. rientra nello schema, ecco. Senti, ma tu che cosa faresti con gli islamici in generale? Cioè, li consideri incompatibili con la democrazia? No, non sono dell'opinione della Fallaci io. Però userei le debite misure senza cadere nella facile. Cioè, tipo che misure? Bravo, meno male. Ma intanto nomi, cognomi ci sono che non sono veramente. Religione praticata, controllo ferreo. C'è una schedatura degli islamici, vorresti? O non c'è che ci si scheda tutti? Se te vai in America, sei schedato, cioè le impronte digitali sanno di che religione sei. È giusto questo. È una società troppo pericolosa per permettersi dei lussi così in questo momento, con una mobilità di ingressi che fa paura, poi indipendentemente dalla volontà di parecchi. Quindi bisogna usare le contromisure. Io non so se ci sia in atto un'invasione dell'Islam buono, diciamo così, dei confronti della civiltà europea. Sì. Può darsi, questo lo sosteneva la Fallaci. Io sono, pur essendo, come tu sai, non di sinistra, non sono mai stato così. Però mi sembra che bisogna assolutamente metterci le mani e soprattutto vincere una condizione di minorità che noi abbiamo. Noi non siamo qui ad integrare le comunità sociali, non è che abbiamo il dovere di integrare le comunità, noi dobbiamo integrare gli individui che prima di tutto devono osservare le nostre leggi e poi le loro tradizioni si vogliono, ma sono fra noi. Noi bisogna piantarla di dire assicuriamo quest'altro. Noi assicuriamo che i singoli cittadini possano integrarsi nel nostro tessuto. E intanto mi dici come ti chiami, sei, quante mogli hai? Perché tu conosci islamici poligami in Italia, non ho capito. Se tu ti vai nei casi di islamici, c'è un uomo, poi c'è una moglie, una cugina, una zia, una parente. Ma che c'entra quello? Perché hanno famiglia allargata, ma che c'entra? Se quelli vogliono vivere con la suocera in casa, te sei l'anima bella e lo fai la parte, giusto? Ma io che non anima sono bella? Un distruttore di diritti altrui, ma qui mi ha messo mano un pochino a tutto. Perché non ci si rende mica conto in che posizione siamo. Tu pensa che un semplice controllo del territorio, cosa che andrebbe fatta, ha permesso questa cattura, una botta di culo, dai. Ho capito, ma c'è il controllo del territorio, però almeno ci sono i volanti per strada la notte, su. Se non ci sei la botta di culo non ti viene, capito? Sì, esatto. Va bene, comprato. Mi sembra lucido l'onorevole Bianconi, finalmente, ottimo. Si vede che il Natale lo ha messo. Dico, finalmente è lucido l'onorevole Bianconi. Ma no, ho capito, ragazzi, però una botta di culo, dai. Non c'è la botta di culo. Non si può sempre diminuire le cose. Quando fai controllo del territorio, quando becchi hai la botta di culo, ma è la botta di culo perché controlli il territorio. Esatto. Ti faccio un altro esempio che Cruciani può capire meglio. Se tu conosci una ragazza che magari poi ti piace, diventa la tua fidanzata, vai in un posto, se vai sempre in quel posto lì, magari una volta ci inizi a parlare, non è la botta, cioè la botta di culo che sei in quel posto, ma se ci inizi a parlare, magari poi dopo lei ci sta. E forse così la metafora la capisce di più, Cruciani. Fatto stesso che c'è la botta di culo che lei incontri, d'accordo, ma se tu neanche ci inizi a parlare vuol dire che mai ci starà. L'hai capito la metafora, amico mio? Nell'ordine pubblico è il controllo sistematico del territorio che... Senti, ma certo, bravo. No, mi sembra lucido Bianconi, mi sembra e il Papa? Non so che ha detto il Papa. No, ma dico, il Papa ha dato un contributo a questa immigrazione incontrollata, il Papa? Certo, è pericolosissimo. Pericoloso. Il Papa è veramente una bomba innescata. Una fa un altro mestiere, capito? No, dai, ti prego, sei anche un deputato al Parlamento. Ma lui è ecumenico, fa i cazzi suoi. Noi siamo italiani. No, ma scusi, Bianconi, però lei è un deputato. Perché parla così del Santo Padre? Ha ragione, è il capo di un altro Stato. Lui è il capo di un altro Stato e di una comunità. Ma noi non si può insegnare tutto. niente. Lui dice pigliamo le bene a tutti, pigliate tutti, piglia tutti, perché la sovvenzione è così. Le mie regole dello Stato dicono che prima di tutto devo mantenere i diritti, i doveri, i ordini per tutti. E anche per quegli immigrati che sono regolari, che fanno il loro dovere, i primi a essere per cui è pericolosissimo il Papa, dice, pericolosissimo. Tra l'altro, il Papa... molti dei guai nostri sotto questo profilo vengono da quella cultura lì, c'è poco da fare. Comunque, il Papa ha fatto ieri un discorso, parlando addirittura, chiamando uno mattina in diretta, il Papa ha fatto un discorso sul fatto che noi adoriamo il Dio denaro. Io mi sono permesso di dire, beh, dovrebbe guardarsi un po' intorno, signor Papa, o no? Questo è un discorso che si faceva all'inizio del Novecento, il denaro sterco degli uomini, cioè, sì, intanto appunto. Pensi un pochino a Bertone, per favore, gli faccia vendere l'appartamento e ci spieghi perché tutto il denaro, molto del denaro delle corruzioni passato attraverso il suo istituto, degli studi, lo IOR, esatto. Certo, insomma, questi non possono lanciare le pietre, insomma, chi è senza peccato la lancia. Ma sì, ma non possono parlare di il mondo deve essere più, no, la povertà, l'adorazione del denaro, il consumismo, ma è pieno di... Scusa, è stato scoperto da poco, vicino a Padova, un prete che pare organizzasse orge di continuo, cioè attrezzi sessuali. Vabbè, sì, quella è una porcheria, dai. Loro hanno dei problemi interni che se non risolvono questi problemi ogni predica da un punto di vista morale e etico diventa problematica in un mondo obiettivo. In più c'è un dato sociale importantissimo che gli stati devono pensare ai loro interessi, cioè a fare gli stati e lui pensa a fare il capo della Chiesa. Anche per fare il capo della Chiesa e predicare miseria, la miseria non si predica, si pratica e loro non la praticano, non c'è niente da fare. Senti, un'altra cosa ti voglio chiedere su Berlusca, hai visto che ha detto, cioè praticamente è un alleato del governo Gentiloni, quella è la sostanza. A me lo dice 2 anni che lo dico io, per cui pensa ai cazzi suoi, questo è il punto. No, lui ha sempre pensato ai cazzi suoi. Vabbè, tu però eri con lui prima, certo, perché i cazzi suoi combaciavano in larga parte coi cazzi nostri. Poi a un certo momento dal governo Montilla le cose si sono separate. Ma adesso è lampante, tu dici. Suoi. E io ho detto anche che però è diventato bravo, sicché siamo arrivati ad Ama. La gente dice è rincoglionito. Non è rincoglionito. Tutt'altro, fa esattamente quello che sa fare. Dipende le sue aziende. Ora c'è il problema di Vivendi. Vivendi. Allora, ha sentito che lo Stato... entra con la depositi e prestiti per salvargli Mediaset, che c'entra come il cavo la merenda, la depositi e prestiti con questa... Sì, comunque questione. Tu dici non è strategica per il paese, dunque non va salvata da nessuno, dici Mediaset. Mediaset se ha un padrone francese invece che italiano che fa le trasmissioni peggio. Si è sputtanato il fiore dell'industria italiana e ci sono per il cavolo con Mediaset, ma non si scherza mica. Non si può dare torto al signor Bianconi però su questo, so che Parenzo la pensa diversamente, ma su questo non si può dare torto al signor Bianconi, Fermi tutti, aspetta, fermo. La Zanzara. Allora ragazzi, la prova secondo me è la prova che il ministro Minniti o chiunque per lui abbia fatto subito i nomi dei poliziotti che hanno ammazzato il terrorista. Caro Parenzo, siamo sempre in collegamento pure con Maurizio Bianconi, deputato, ormai il deputato non so più Bianconi. Non so nemmeno più di quale gruppo ormai, credo gruppo misto, cioè ormai va veramente i cazzi suoi. Ma come faceva prima, diceva sempre quello che pensava, per carità. Ex tesoriere di Forza Italia, la prova chiara è nel fatto che sta circolando una polemica su internet, come si dice. No, la polemica è questa: il poliziotto Luca Scataffa ha il saluto romano. Il poliziotto Luca Scatà, protagonista del conflitto a fuoco che ha portato alla morte del terrorista autore dell'attentato di Berlino, posa su Instagram facendo il saluto romano fascista a sostegno della sua dichiarata fede politica, alcune immagini inequivocabili di Mussolini e contro il 25 aprile. Cioè, nel profilo Instagram di questo poliziotto, fino a ieri sconosciuto, il cui nome, dopo aver ucciso il terrorista, è stato reso noto dallo stesso ministro degli interni contro la volontà del questore, che esplicitamente ha detto i nomi non ve li do, questo in contemporanea, mettetevi d'accordo, ripeto, dopo che i nomi sono stati diffusi, naturalmente tutti sono andati a cercare qualsiasi cosa, come è ovvio, no? Beh. E allora è uscita fuori la foto di questo qua che pare che faccia il saluto romano, la sto vedendo in questo momento, lui con un maglione con la bandiera dell'Inghilterra e lui che sembra che faccia, sì, no, sicuramente fa il saluto romano perché lui stesso a scriverlo, Luca Scatà, Roma, Eur, saluto romano. Dopodiché c'è un'altra foto, pubblica sul suo profilo una foto di Mussolini, il tradito potrà anche essere una, il tradito potrà anche essere un ingenuo, ma il traditore rimarrà sempre un infame. E un'altra foto ancora, la sto leggendo adesso, il 25 aprile, non lo festeggio, la sconfitta di una nazione, eccetera, eccetera. Bianconi? E allora che c'entra questo? No, non c'entra nulla, sto dicendo semplicemente, a me non me ne frega niente che questo sia fascista, non fascista, non me ne può fregare di meno. No, neanche a me in questo momento. Però sta girando su internet. E va bene, perché vanno e diranno che hanno fatto bene ad avere i nomi, così l'ammazzano, perché i poliziotti vanno comunque ammazzati, poi in più i fascisti ammazzati non ne va reato. E si no, ma appunto, sto dicendo. Tranquillo, insomma, io non capisco chi è che abbia reso pubblica anche questa cosa qui, insomma, per rendere... mettere quest'uomo in croce più di quanto non sia in questo momento, cioè ora ci sarebbe da essere solidari su questi disgraziati, questi sono veramente sono sulla graticola, io non vorrei no, ma assolutamente dopo. Assolutamente questo ti dico, il frutto di aver poi diffuso poi sei un po' imbecillotto voglio dire, se c'aveva quello di Guevara non cambiava niente, o c'aveva la faccia del martello. No, sì, no, ragione, su questo ragione. Dovere, insomma, no, ma su questo non c'è dubbio, sto dicendo semplicemente che avere pubblicato i nomi, avere reso noti i nomi, sta creando questa valanga. Adesso la gente va a cercare, no, addirittura vengono chiamati oggi i killer del terrorista. Appunto, ma questi sono i cosi, sono i poliziotti che hanno ammazzato un terrorista. Che cazzo vuol dire? Bisogna godere per la morte di un terrorista, o no? No, bisogna godere. Per la morte di uno non si muove. No, io godo. Voglio dire, però sì. Si capisce che rientra nel novero dei giochi, insomma, anche quando Feltrinelli rimase appiccicato al traliccio, nessuno godette, però andava a metterci le bombe e morì, insomma, voglio dire. Va bene, ciao Mori, ciao. Arrivederci, caro. Allora, Salvatore Catania, vai. Sì, buonasera. Dimmi Salvatore, dimmi. Allora, stamattina, quando mi sono svegliato, erano circa le 6, leggendo i notiziari, sai, quelli che scorrono di Digicom, queste cose qua, no? Sì, si parlava di una tragica sparatoria con la morte di un poveraccio che stava durante il controllo dei documenti. Quindi già si stava quasi puntando il dito contro questi, la stampa già stava quasi puntando il dito per questa tragica sparatoria. Poi quando si è saputo invece chi era, da buoni italiani, bandiere, che siamo tutti, boom! Allora? Tutti. E quindi sono convinto che i nomi erano usciti perché probabilmente già si stavano cercando di trovare di un che capo cosa? Espiatorio stamattina. Ma quale capo espiatorio di che cosa? Di che stai parlando? No, ma cosa dici, Salvatore? Ma cosa dici? Il capro espiatorio di che? Vabbè, ciao, che Francesco da Pistoia. Però, ragazzi, ciao. Ma il delirio. Io sono stato esprimere la mia opinione dicendo che secondo me qui si sta un po' passando la parte da ambo i lati, nel senso che definire killer un poliziotto che ammazza un terrorista mi sembra follia. Così come mi sembra follia definire fare di tutto un fascio, di tutta l'erba un fascio, e definire tutti gli immigrati che vengano in Italia, o comunque sia tutti i musulmani in generale, dei folli terroristi. Ma certo, non c'è dubbio su questo. Non c'è un po' di dubbio. Come ogni cosa, la giusta misura, e che ci voglia conoscenza e prevenzione più che questo. Questo lo sappiamo, Francesco. No. Ciao. Io chiamerei, caro Parenzo, chi, ma te lo caro? Ricordi tu Zucchi? Il mitologico Zucchi? Ah, quello che lavorava con quello che era lì portavoce di Adam Smith. Un convertito all'Islam. All'Islam. Come no, Zucchi. Ex estrema sinistra. Sì, quello che stava con. Com'è che si chiama? Personaggetto. Zucchi. Smith. Sì, Adel Smith, quello Adel che ce l'aveva con i crocefissi. Zucchi, un convertito all'Islam. Pronto? Sto parlando col mitologico Massimo Zucchi? Sì. Come andiamo? Sono Cruciani, come va? Sì, ti ho riconosciuto, Cruciani. Come stai, Zucchi? Siamo vivi. C'è Parenzo pure, eh? Ti saluta. Eccoci qua. Ti saluta e ti omaggia. No, non saluto e non omaggio, ma non. Ma perché? Che ha fatto adesso? Mica, non me ne frega. Mica niente. Ma perché devo? Niente. No, volevamo sapere non la tua. Non me ne frega niente di omaggiare nessuno, lo omaggio un personaggio così, ma perché? Perché ha fatto? Non ha fatto nulla. Oh, mamma mia, ma che da contratto c'è scritto che devo omaggiare Zucchi? No, nel contratto che ho firmato con la Radio del Sole? C'è scritto? E allora andate a fare il culo. Allora, Zucchi, scusami, due poliziotti questa notte, due poliziotti italiani hanno ucciso durante un controllo, un posto di blocco, un signore che si chiama Amri, che è il responsabile, così sembra, così dicono, della strage di Berlino di pochi giorni fa. E sì, tutto, sei contento che sia morto o no? Ma contento che sia morto. La morte non si giuisce mai della morte di nessuno. Questo però è un terrorista. Sì, ammesso che sia una persona sana di mente, era un nemico dell'Islam, senza dubbio. Come un nemico dell'Islam? Ammazzava nel nome dell'Islam? Ma quello che fa nel nome di altri non mi interessa. Quello che oggettivamente fa uno che ammazza la gente innocente è un nemico dell'Islam, perché applica i principi. Io pure posso dire di essere laziale e poi faccio il tifo per la Roma. Cioè, uno che ammazza le persone, se ci fosse la legge islamica, sarebbe condannato a morte. Cioè, tu lo condanneresti a morte? Se ci fosse un paese dove fosse applicata la sharia islamica, sarebbe condannato a morte. Cioè, tu nel tuo paese, nel tuo paese ideale sarebbe condannato a morte? Ma è ovvio. Come è ovvio? Scusa. Una volta accertato, ma perché una volta in un paese dove c'è applicata la sharia al 100%, sì, quindi nessuno può farci giustizia da solo. In nessuna Però parte tu dici, tu vorresti vivere in un paese del genere? In un ipotetico, in un ipotetico paese, certo, ovviamente ci sarebbe la condanna a morte. Per omicidio è prevista la condanna a morte. E a te piacerebbe evidentemente vivere in un paese non di questo? Non piace la morte di nessuno a me. È un criminale. Piacerebbe a tutti i musulmani praticanti, piacerebbe un paese dove si applicasse la sharia islamica, perché la sharia islamica non è quello che sta scritto sui giornali. Cioè, io dico, meno male che è morto. La morte è sempre morte, io non gioisco. Potrei essere... facciamo un'ipotesi, lo prendono perché è una cosa che non succede mai, perché io un processo a persone di questo genere ancora non riesco a vederlo, tutti muoiono, non si sa, poi si sa, dobbiamo fidarci di quello che dicono, ma l'ideale sarebbe fare un processo, no? E tu non ti fidi, ma qui non mi fido di nessuno. Sarei stato contento della condanna, cioè della condanna a morte, del fatto che la persona sia stata punita. Feltri, per esempio, dice è chiaro che non tutti gli islamici sono terroristi, però i terroristi sono tutti islamici, signor Feltri, dice questo è un dato di fatto, però no, non è un dato di fatto. Beh sì, quali sono gli altri terroristi nel mondo, scusa? Non so, gli americani, gran parte della classe, cioè, gli americani sono come kamikaze, secondo te? No, ma uno come Bush è altro che terrorista, cioè Israele è uno stato terrorista, per esempio. No, lasciamo perdere Israele. Uno come Bush, no? Che ha fatto una guerra inventando. È peggio di tutti i terroristi che ci sono. Scusami. No, ne ha fatti fuori qualche milione. Israele è un'altra cosa. Non c'è uno stato, non c'entra niente. Qui ma è uno stato terrorista? Beh, sicuramente molti atti terroristi sono arrivati da Israele. Ma perché uno deve sentire sto ciarpame? Non ho capito. No, lo dice Zucchi. Non è che lo dice. E perché deve sentire sto ciarpame? Perché io devo sentire questo ciarpame? Scusami, Zucchi, con più Islam noi staremmo bene, con più Islam. Se ci fossero tanti Zucchi che si convertono all'Islam. Tanti Zucchi c'è da mettersi le mani. In tutta modestia e cerca di essere un musulmano praticante. Se tutti i musulmani fossero così, sarebbe un apporto positivo per la società italiana. Cioè, se ci, allora, dunque, se ci fosse, si chiama Muhammad e poi fa lo spacciatore di droga. Vabbè, quello è un altro discorso, certo. Ma quello si chiama Muhammad. Cosa fai per essere praticante dell'Islam tu in concreto? Per praticante dell'Islam, faccio quello che tutti fanno i musulmani praticanti, faccio 5 preghiere al giorno. Quando c'è il Ramadan, osservo un mese del digiuno del Ramadan. Mogli? Mogli, ho una moglie e 4 figli. Sai che in alcuni paesi è prevista la poligamia, sì? Certo, è prevista, è sconsigliata, ma è prevista. È prevista, cioè tu la approvi anche la poligamia, cioè la vorresti avere la poligamia? Non è che la approvo io. Dio nel Corano dice che è prevista, in determinati casi e determinate condizioni. So che non è... Uno è un miliardario, sì, e c'ha la possibilità, per esempio, di sposare una profuga della Siria, che gli hanno ammazzato tutta la famiglia, questo fa un'opera di bene, perché sistema una ragazza, pur avendo una moglie, tu dici, potendolo fare in quelle condizioni particolari, cioè, diventa una cosa meritoria. In certe condizioni aiuta la società, la poligamia, tu dici. Ma certo, ma questo è stato nel passato, è sempre stato così. Capito, vabbè, dai, lascia stare. Già con una moglie è una roba pazzesca. Averne due o tre, ragazzi miei, vuol dire n suoceri. Ma che cosa vuol dire nella Bibbia, amico mio? C'è il matrimonio multiplo illimitato. Il Corano li limita a quattro. Non è la religione di pace l'Islam. Certo, ma tutte le religioni sostanzialmente. Sono assolutamente d'accordo con Papa Francesco quando dice che tutte le religioni sono di pace. La guerra arriva da ben altri ambienti. Vuoi sapere che associazione è quella di questo qua? Alta finanza, eccetera, ecco, eccetera. Cioè, le guerre non vengono vengono da lì. Non vengono dall'Islam, alta finanza. Non vengono né dall'Islam. Non mi pare che i paesi arabi siano proprio poveri. Non mi pare che gli miei paesi arabi siano proprio poveri. C'è anche qualche principe arabo che è coinvolto nella massoneria, assolutamente. Va bene, Zucchi. Molti dirigenti dello Stato di Israele. Ciao. Grazie, ciao Zucchi. Ecco. Mi scusi? Mi faccia tutte le domande che vuole, perché sente l'esigenza di andare da De Marco? Non è che sento l'esigenza, noi non abbiamo un format preconfezionato. Quando vuole, è un bravissimo collega De Marco. Va bene, rimango da lei. E allora io la ringrazio, lei è molto gentile. Mi dica, lei è molto gentile. Brunetta, per favore, veramente, tanto siamo due persone civili, immagino, no? Quindi rimango da lei. Mi chiami magari Presidente? Dica. Mi chiami magari Presidente Brunetta, onorevole Brunetta, ma Renato. Guardi che questo non professor cambia, Brunetta. non è che io ho meno rispetto di lei se non Brunetta la chiamo brutale, Presidente. Un po'. Ma non è che no, meno non cambia assolutamente niente, le chiedo un po' di gentilezza. Mi scusi? Parenzo e Cruciani, ho associato la vostra faccia alla voce. Non l'avessi mai fatto. La Zanzara. Ma ora, secondo Parenzo, la gente che ha sparato al terrorista va indagato, perché comunque chi spara va sempre indagato, oppure è un eroe? Chissà. Parenzo, stasera aspetto che tu dica: povero migrante che gli hanno sparato a morte, bisogna inquisire il poliziotto perché lui gli aveva solamente sparato sulla spalla e lui doveva accompagnarlo in questura e fare tutti gli accertamenti. Ma vai a fare in culo. Apriamo un'inchiesta sui poliziotti di Sesto San Giovanni. Parenzo, apriamo un'inchiesta? Allora ragazzi, intanto il Milan ha vinto la Supercoppa italiana. Ma scusa, ho mai sostenuto una stupidaggine simile io? No, mai. Io sto dalla parte di quei poliziotti che hanno sparato tutta la vita. Dopodiché aggiungo, allora, non posso capisco. Dire che il Milan ha vinto la Supercoppa italiana, sì, nei rigori, dillo, notizia però di adesso. Io sapevo, ma chi se ne frega. Sapevo invece che un sacco di gente no, volevo dirti questo, la fiera degli idioti, pensavo fosse nel 2017. Rofier. No, invece è già da oggi è cominciata la fiera degli idioti. La famosa fiera degli idioti, vendono i biglietti online, peraltro. Sì. Pensavo fosse il 2017. Cioè, quelli che sostengono queste cose sono degli idioti. La fiera degli idioti. Ma guarda, questa è la fiera degli idioti, che però era in programma per il 2017, per la prima puntata della Zanzara del 9 di gennaio. Sì. Mi pare ci sia un piccolo anticipo di questa fiera già da oggi. Fabio da Lodi, vai Fabio. Sì, ciao, volevo intervenire per quanto riguarda il discorso dei migranti che arrivano col barcone. Secondo me è la minchiata che arrivano terroristi, perché ragionandoci non avrebbe senso per un'organizzazione terroristica mandarli col barcone, che magari gli vogliono in mezzo al mare. Vabbè, diventano arrivano... dopo, in alcuni casi diventano ecco, dopo. Bravissimo, dai. Diventano dopo. Vabbè, allora? Cioè, che, senza... che la gente dice, arrivano... terroristico, no, non arrivano quattro poveracci che poi al massimo si radicalizzano perché sono ignoranti. quindi non stiamo a dire cazzate. Quali cazzate stiamo dicendo? Scusa, non ho capito. No, non voi, però alcune persone che intervengono che dicono che con i barconi arrivano i terroristi. Arrivano quattro poveracci ignoranti che arrivano qua, non hanno più un cazzo da fare e si radicalizzano. Va bene, Marco da Roma, vai. Marco, sera. Dimmi, dimmi. Le cose che riesco a sentire a vostra trasmissione, penso veramente non riesco a sentirle in nessun'altra parte dell'universo. Questo sicuramente, questo è probabile. Questo è probabile. Sì, infatti, cioè, a me solamente l'idea, capito, che qualcuno possa dire arrivano con i barconi, fanno i terroristi, e mi verrebbe voglia di metterceli a loro sui barconi e rimandarli a loro in Libia. Ma questa cazzo di parte d'Italia va comunque mantenuta. Cioè, voglio dire, ma io quale parte d'Italia? Quale? Per esempio, quale? Quella che sostiene la Lega, quella che sostiene le divisioni, quella che dicono che sono tutti i terroristi, i musulmani, queste puttanate qua, quelli che stasera magari hanno vinto, ha vinto il Milan per un gol di qualche musulmano esulta, queste puttanate qua non se la fa più, quelli che dicono pena di morte a tutti i costi, ci sono degli stati sociali in Italia, ci sono degli stati, delle organizzazioni sociali che, in cui si applica la pena di morte in maniera radicale, la mafia. Ma voi vi risulta che nessuno fa più uno sgarro tra bande mafiose perché c'è la pena di morte? Ma che cazzo dite? Dite, io non dico niente. Ha fatto un bel ragionamento. Te la stai prendendo con qualcuno? Qualcuno? No, la sto prendendo. Non c'ha ragione, con buon senso. In generale, voglio sto dicendo che io mi sento disgustato. Ma da che cosa disgustato? Non ho capito. Di far parte dello stesso gruppo etnico di cui fanno parte questi italiani. Vorrei sapere se è possibile dividerla in qualche maniera. La vogliono fare? La Lega voleva fare questa cosa, no? Ma dividiamola, vaffanculo. Scusa, ma non ho capito. Io non ho capito chi te la stai perdendo, con qualche ascoltatore, con i leghisti. Cioè, anzi, adesso ti facciamo sentire, un po' di Marco, con tutti quelli che dicono delle puttanate assurde, quali i terroristi sono migranti che arrivano con il barcone. Beh, in alcuni casi portiamo l'immondizia sul torpo di un povero testa di cazzo che è morto comunque, del quale che non ha nessun tipo di rispetto da parte mia, ma neanche il disprezzo della vita in quel modo. Cioè, fammi a capire, questo è il discorso. Ciao. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania, bella e Bergoglio e la sinistra, complici dell'attentatore, caro Parenzo. Bergoglio e la sinistra. Dalla musichetta introduttiva deduco il peggio di Radio Calabria. Ecco, fu Radio Padania. Non è la politica che ci ha portato in casa questa gente. Di nomi e cognomi, sinistra e PD. PD sinistra e Papa, il signor Bergoglio. Tutta la politica non è complice. Questi sono i loro complici. Vai vedere le tue braccia possenti. E io spero ardentemente che non ci sia il giudice rosso di turno che gli farà l'indagano d'ufficio per eccesso di legittima difesa. Perché mi auguro che non sia così. Ma quelle facce di SDM dei giudici rossi non hanno limiti nella vergogna. Figlia della libertà. Barin, Sesto San Giovanni. Come Molenbeek, c'è un centro islamico incontrollato. Non sembra proprio così, comunque, Marino. Sesto San Giovanni come Molenbeek. Sappiamo che c'è anche una mini moschea lì in zona che ha dato del filo da torcere alla polizia negli ultimi tempi. Padania bella e libera, guardava. Salvini dice che nessuno sulla terra piangerà per la morte del terrorista. Fai sentire quanto è forte la tua voce. Ringrazio Dio che stavolta sia morto il cattivo. Non penso che nessuno sulla terra pianga il criminale che è morto stanotte. Caccia oltre il fiume. Agli islamici neppure i sottoscala per pregare, dice Salvini. Spero che non si concedano più spazi, mezzi spazi, sottoscala, scuole, ospedali, associazioni culturali o altre farneticazioni del genere a una religione che non è una religione. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Marco da Como, vai Marco. Marco. Oh. Sì. Dimmi. Sì. Dimmi. Sì. Io niente, volevo semplicemente dire, ma questo qui, come cazzo ha fatto dalla Francia dalla Germania, ragazzi, a passare la Francia. Questo è il punto vero, è questo. Ha preso a Sesto San Giovanni a 800 metri da dove è partito il tir d'acciaio, carico d'acciaio, che è andato in Germania a fare l'attentato. Signori, questo è aiutato da qui, porca puttana. Vediamo se è aiutato da qua, lo vedremo. Cioè, adesso tu sei sicuro che è aiutato da qua? Lo vedremo se questo qua viene aiutato da qua. Hai fatto le indagini qui, il Tenente Colombo? Hai fatto le indagini, sai? Dai, ma certo che viene... Caterina da Monza, dai. Caterina. Sì, dimmi. Ciao. Dimmi. Ascolta, volevo soltanto sapere quando succederà che indagheranno, perché sicuramente ci sarà qualche cretino che lo farà, indagheranno il carabiniere che ha... Ancora questa storia, intanto è un poliziotto. Ancora questa storia. Ma nessuno indagherà il poliziotto. Ancora questa storia. Sicuramente ci farà anche da risarcire i familiari di questo. Ma qua, cosa sta dicendo? Ma che allora dice? Ci sarà qualcuno, non so se è il PM, qualcuno ci sarà che lo tirerà in ballo. Io ci faccio ci faccio solo le palle, qualcuno che lo tirerà in ballo. I coglioni non ce li hai, per cui non le puoi non te le puoi giocare. Non importa, però comunque io ti scommetto che verrà, già stanno iniziando quello che già sta iniziando anche voi, che siete un po' stronzetti a tirar fuori le cose in internet, ma lasciate stare, no? Okay, ma io non so, non lo tirate fuori io, quelle che il poliziotto aveva simpatia fascista, uno dei due? Amica mia, a me non cambia niente. A me non me ne frega assolutamente nulla, sto dicendo che qualcuno polemizza su... Qualcuno? No, ciao, Caterina, ciao. Sentiamo uno degli anti-islamici per eccellenza, caro Parenzo, il professore Carlo Taormina, chiamiamo. C'è da dire qualcosa su questo professore? Chiediamo se il professore è da dire... Sentiamo. Pronto? Professore? Poi. Come stai? Bene, un po' stanco. Ti rompiamo i coglioni? Ti credo. Vabbè, quello sempre. Non ti pare assurdo, tu che sei esperto di queste cose, non ti pare assurdo che è stata rivelata l'identità dei poliziotti che hanno ucciso l'islamico? No, è stata una cosa abbastanza pericolosa che è stata fatta, sì. Io l'ho notato subito. Siamo minniti allora. Io ho notato prima di tutto che questo, dopo aver commesso l'attentato, si è venuto in Italia, evidentemente sapeva dove rifugiarsi. Dunque, perché sapeva che qui... scusa, è un posto così preciso come la zona di Sesto San Giovanni, io conosco benissimo perché è stato anche il mio collegio elettorale, e dove c'è parecchia immigrazione, per cui trovava sicuramente protezione. Che bisogna fare con questi islamici? Secondo me è l'Islam nella sua radice che ha una potenzialità violenta di contrapposizione, di uccisione degli infedeli, e quindi sono tutte cose che ormai sappiamo. E dunque che bisogna fare con l'Islam? Io la mia opinione è che ognuno deve stare a casa sua. Secondo me, nel dubbio, bisogna essere molto selettivi. Secondo me gli islamici possono venire in Italia ad una condizione, che dichiarino di abiurare a tutto ciò che costituisce violazione di diritti umani che è ricompreso nel Corano. Ho capito, però qui è pieno di musulmani in Italia che non hanno fatto nessun tipo di questo. Infatti questo è il problema, infatti addirittura personaggi come questo che ha fatto l'attentato a Berlino parte dall'Italia e torna in Italia, vuol dire che c'è un terreno fertile. Ma per non sapere né leggere né scrivere, secondo te non è meglio cacciarli? Ognuno a casa sua. Cioè, la cosa ideale sarebbe non avere nemmeno un islamico in Italia, la cosa ideale. E nemmeno un italiano nel mondo islamico, perché sei andato mai a Marrakesh e nemmeno un anti-gay come lui. A Marrakesh è pieno di italiani, appunto. Ma vedi cosa ti fanno entrare dentro le moschee? Vabbè, ho capito. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Ma che dici? Ma quella superiorità sarebbe quella sua, di una persona che dice che del suo studio non vorrebbe assumere un omosessuale? Questa è la superiorità? Vabbè, ciao professore. Ciao. Anni, da quando ascolto la zanzara con il mio ragazzo parlo solo di te e lui è super geloso. Siamo al top. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta la zanzara. Prima avevo sogni normali, adesso sogno solo Cruciani coi capelli stopposi, la moglie di Richard Benson con le tette da fuori e i cinesi che non lo vogliono prendere nel culo. L'ascoltatore tipo della Zanzara. Intanto ritorna. C'è sempre questo linguaggio aulico anche alla vigilia di Natale. Ritorna a parlare Vincenzo De Luca, il governatore del mondo. Senti. Avevate detto che bisognava rispettare il voto dei cittadini. Oggi abbiamo un sindaco a Roma che sembra svolgere solo una funzione decorativa, come dire, di soprammobile. Ma decidono a Milano, decidono a Genova. Cioè una società privata, quella di Casaleggio, ti manda l'assessore alle partecipate. 5 Stelle peggio degli altri. Appena sono arrivati a misurarsi con la realtà, hanno dimostrato di essere non come gli altri, peggio degli altri. Sempre in forma, sempre in forma, sempre in forma, non lo ferma nessuno, le indagini, ma le indagini su di che? Su una frase detta davanti agli altri sindaci, ragazzi. Cioè l'Italia è veramente un paese ridicolo, indagano il governatore del mondo, che già non è indagabile in quanto governatore del mondo, sì, capo supremo delle nostre menti, per una frase detta davanti ai sindaci, ma se volevi rubare qualcosa, se volevi dire qualcosa, che facevi? Dicevi qualcosa praticamente in pubblico con i telefonini, ma dai, su... Roberto D'Agostino con noi, buonasera. Finalmente, eccoci. Come andiamo? Come andiamo? Ultima puntata questa sera, Dago in the Sky, ragazzi. La partita è finita. Inter, Lazio, Inter. Ma mi mando veramente, invece di mandare tutti, mi mandano a quel paese. Io invece mi mando in the Sky, nel cielo. Bravo. The Last. Anche la puntata dedicata alla religione, alla spiritualità. Pure. Con due straordinari, Vito Mancuso, Pietrangelo Buttafuoco, c'è anche Corrado Penta, cioè è una puntata dove finalmente parli di cose serie, della croce, diventerete tutti buoni e soprattutto consapevoli di aver fatto finora una vita di merda. Senti una cosa, ma Dago, sì, ma non ti pare assurdo? Non ti pare assurdo adesso da qualche ora c'è la polemica sulla diffusione, sì, dei nomi di questi due poliziotti, no? Cioè... è assurdo, sai com'è? Come la frittura di pesce di De Luca, cioè? Nel caso di rivelare addirittura con le foto, nomi, cognomi, anche il DNA gli hanno rivelato, sì, ma basta un po' di buonsenso, no? Adesso non stiamo discutendo, in Italia si discute gran parte del tempo su cose che il buonsenso dice da solo che è una stupidaggine, che è un'idiozia, che è un'imbecillità. Il buonsenso è quello che manca a questo paese. Cioè, ma chi ha sbagliato, secondo te? Solamente di cose dove si capisce, anche un bambino capisce che è rischioso mettere nome, cognome, foto, anche, che ne so, mancava la foto dei pubi, mancava dove stava l'indirizzo, il vicoletto di casa. Ma praticamente chiaro, quello c'è, perché hanno consentito di intervistare i genitori fino a 5 secondi fa, praticamente. Per sì, cui... ma il problema qual è? È che finalmente, dopo tanti scandali, il Ministero degli Interni ha una grande vittoria, sì, e se la vogliono giocare a livello di propaganda. Non c'è dubbio. Non c'è quindi dubbio. Ha sbagliato Minniti per te. È Minniti, capito? Ha vinto la lotteria. Sì, no, ma è vero, è vero. L'intelligence italiana è più... la polizia italiana è più capace di quella tedesca, capito? Cosa mi è successo, credo, nella vita di questo mondo. Sì. E quindi ecco che hanno bisogno di proporsi, di mostrare agli altri... noi ce l'abbiamo più lungo. Però, no, ma è così, è così. La vita, perché non è che rischia Minniti, il ministro, perché lui ha la scorta, blindato la macchina e tutto quanto. Qui rischia la vita due poveri poliziotti che prenderanno 1.300-1.500 euro al mese. No, ma è sicuro. Così, ma d'altra parte la cosa incredibile è che nelle ultime ore c'è un'altra polemica, perché naturalmente una volta saputi i nomi e cognomi la gente va su internet e cerca tutte le possibili notizie immaginabili. Questo è normale. Hanno scoperto su Instagram alcune foto di questo tizio, magari c'è avuto da fare nell'ultima ora, non l'hai viste? C'è alcune foto di questo che fa il saluto fascista, parla male del 25 aprile, uno dei due, anzi quello che che materialmente poi ha sparato e ha ammazzato il terrorista, questo Spatà, come si chiama. Cioè, uno fa il saluto fascista, poi fa, c'è una foto, beh, di non Mussolini. Cambia che ha fatto bene il suo lavoro. Ma no, però. Ma certo, a me non me ne frega un cazzo. Niente. Sto dicendo che diffondendo il loro nome, adesso c'è gente che dice: ecco, quello che ha ammazzato il terrorista è uno fascista, ha messo le foto di Mussolini, eccetera. Vai a vedere, c'è sta polemica qua. Vabbè, comunque Poletti alla fine non si dimette, hai visto? Pure il figlio dice che non si deve dimettere, 500.000 euro di finanziamento pubblico e non si vergogna nessuno. Vabbè, ragazzi, che vedevo di. Ma ragazzi, forse non avete capito che c'è una crisi economica. Avete capito che si andrà a votare nel 2018 perché a settembre 2017 scatta la pensione per tutti i deputati, eccetera, perché fanno 4 anni e mezzo di legislatura. E questo è il punto. Abbiamo famiglia, quella è sempre la vecchia bandiera. Noi abbiamo bisogno, c'è tutto. Cioè, io dico, andiamo a votare, ma io prendo 15.000 euro al mese e butto nel secchio, sì, dici, per perché 15.000 euro, ma insomma voi siete tutti matti, capito? È così, dai. Vabbè ragazzi, ciao Dago, a presto, ciao Dago in the sky, no, stasera, presto, mi raccomando. 5 minuti vado in onda. 5 minuti, ragazzi, Dago in the sky fra 5 minuti, ciao Daghi, ciao, ciao, dai. Ciao, ciao. Un bacio, ciao Robè, ciao, ciao. Ciao. Allora, dove andiamo? Libero, Foggia, vai, libero. Ecco, vabbè, ma cioè, io stavo quasi per attaccare. Vabbè, in tutti i casi, ascolta, io volevo innanzitutto rispondere al nostro connazionale, anzi, 10 minuti fa, i migrati vengono poveracci, che poi diventano delinquenti. Ma qua i poveracci sarà lui, per cui innanzitutto questi sono preparatissimi, acculturati, ok? E per quanto riguarda l'immigrazione, io comunque volevo dire, da sempre, telefonate, vabbè, questo è un virus, hanno contagiato l'Europa, hanno contagiato... Ma chi ha contagiato? Ma cosa dice? Chi gli immigrati, questa categoria dei musulmani, che poi ce ne saranno il 10, 20, 30% Ma chi ha dei contagiato? Bravi. Chi ha contagiato? Chi? Che no, cosa? Hanno contagiato la nostra Europa, la nostra bella Italia, che si dormiva... prima senza porte chiuse, ha capito? Sì, bravo, allora, nella Germania, nel ventennio, ma neanche nel ventennio, propaganda da ventennio è questa proprio, da ventennio fascista, ci si dormiva con le porte aperte, dai. Esatto, perché si esatto? Dormiva con le porte, specialmente in nord Italia, si dormiva a porte aperte, oggi no, oggi ti devi barricare coi fucili dietro la porta. Hai capito? Sì, per forza, negli anni 20 i banditi erano al governo, ecco perché si dormiva con le porte aperte. Ma vabbè, perché, il no? Fatto... Ascolta, no, dico, negli anni 20, durante il fascismo, i banditi erano al governo, quindi se i banditi sono al governo è ovvio che dormi con le... Dici chi cazzo è che roba? Nessuno. Vabbè, perché... voglio dire, i banditi assassini sono al governo. Ce l'ho veramente, allora io ce l'ho veramente con chi ce l'hai, non si è capito. Viene a delinquere qua in Italia, che non si può più ormai. Come io devo andare in piazza, non posso più andare, o devo andare a sentirmi la messa a San Pietro, e la paura. E sì, cioè, voglio dire, è chiaro perché che poi tu alla fine vai a San Pietro, tu vai a San Pietro a vedere la messa e c'hai paura? No, comunque ma ci vai, sì o no? Ci vai, sì o no? Ci vado. Va cioè, bene, allora. Ci vado. E c'hai paura? No, forse no, è ci vado. C'hai paura, però... sì o no? Oh, ma Cruciani, io ho detto ci c'hai vado. C'hai paura, sì o no? No, io non ho paura di un cazzo. E allora capito? Che vuoi? Se non hai paura, non hai paura. Io sai di chi c'ho solamente paura? Che non posso fare niente, ok? Cosa? La nostra politica, che prendono 2, 3, 4, 500 mila euro al mese di pensione e poi non vadano magari alle persone che non possono nemmeno vivere lì sulla carrozzella, sedia a rotella, capito? 500, ma cosa dice? Ma che stai dicendo? Ma vabbè, ma passo da un fatto all'altro, magari di loro c'è paura. No, ma deve mostrare... Oh, vabbè, in tutti i casi ho risposto semplicemente al nostro connazionale che ha detto... Quale connazionale? Un quarto d'ora fa ha parlato uno che ha detto gli immigrati che vengono non sono terroristi, ma che lo diventano poveri. Quelli sono poveracci, quelli che arrivano sui barconi. Sono poveracci. Quelli non sta sono bene, più acculturati. Quelli parlano 4-5 lingue. Beh, dipende, magari. Dipende. Voglio dire, però, la maggior parte di questi paesi comunque non so. Cioè, sono poveracci alcuni, il mondo probabilmente dell'Africa nera, ma non questi intorno che abbiamo qui alle nostre porte, che ci arrivi a nuoto. voglio dire, qua è, insomma, per dire, ho voluto semplicemente rispondere a colui che cioè, ha detto gli immigrati sono un virus, secondo te? Sono, che sono un virus. Sono, bisogna estirparli. Che cosa bisogna fare? Che parola bella, però, come fai? E che ne so, mi cerco di entrare nel tuo cervello. È un virus, esatto, è un virus, che ormai veniamo l'Europa, i paesi, veniamo, no, ma anche l'America per carità, ormai questo è un virus che si sta espandendo proprio in tutto il mondo, che noi 20 anni fa, 30 anni fa non avevamo questo problema di shopping, di fare lo shopping con tranquillità e serenità eccetera. Ora si va a un teatro, madonna, ora io voglio andare a Parigi, mamma mia, ancora stai attento, ma dopo io ti comunque vive una fobia, cari, è così, è un virus. È un virus. Esatto. È un contagio. Cioè, è oltre la... Ma vabbè, non voglio dire... Beh, mi pare abbia già detto tu tutto, che ci faresti con questi immigrati? Cosa ci faresti tu? Oltre non è che si può dire, oltre quello che ha già detto, mi pare. Che ci faresti tu con questi immigrati? Io senz'altro, cioè, cosa ci farei? Senz'altro, non è che io aspetto prima che questo mi venga a fare la pelle, poi sai, poi dico come, vabbè, sento tante cose, come quando uno non sta tranquillo a casa sua, poi magari sente dei rumori, lo stanno rubando al garage, lo stanno rubando. Cioè, costui viene, cosa farei? Lo so cosa farei. Cosa farei di tutto per stare di nuovo, per essere sereno, dormire tranquillamente. Cioè cosa? Tipo? Cosa? Allora, è una domanda un virus, così grande, va bene, cosa, perché non sono semplicemente, tu cosa faresti con quei ciao libero, si riposi perché mi pare, ciao. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, pronto? Parla, scusi. San Lazzaro? Chi parla, scusi? Pronto, San Lazzaro, qui Milano, buonasera. Pronto? Buonasera. Pronto, signora? Pronto? Pronto? Luca da Monza, vai Luca. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Dimmi. Allora... Salve Luca. Volevo dire una cosa in merito al fatto di indagare o meno il poliziotto. Aspetta che un secondo, aspetta. Vabbè, Luca, allora? Dicevo. Che dicevi? Dicevo, sul fatto di indagare o meno il poliziotto che ha sparato terrorista, eccetera. Allora, fermo restando che secondo me questo poliziotto ha svolto un grande servizio per la società, non italiana, ma la società a livello mondiale, secondo me è giusto che venga indagato. Perché? Perché? No, ragazzi, però non diciamo cazzate, dai. Non può essere una cazzata, ma non può essere indagato perché cosa? Scusa, era un posto di blocco. Uno arriva, prende una pistola e tenta di sparare. Dice all'Akbar, prima dice sono un calabrese, i poliziotti bastardi. Ma poi questo spara, viene ammazzato. Ma di che parliamo? Ha fatto benissimo. Sai qual è il problema? No, ho capito. Capisco la polemica. No, era una polemica. Se non viene indagato, ci sarà sempre il dubbio, perché... Ma non poteva non sparare, diciamo, perché non può... Perché venga dimostrato, oltre ogni possibilità Luca, di non dubbio, diciamo stronzate, dai, che su, si sia comportato secondo le regole in modo corretto. Dopodiché, ha tutto il mio rispetto e ha fatto un grande servizio. Vabbè. Però... Ferdinando però da Palermo, sia... dai, Ferdinando da Palermo. Buonasera. Dimmi. Buonasera. Mi ha preceduto già il signore di prima, io volevo... Invece fare una piccola riflessione, oramai sono in pensione, ho fatto 30 anni le forze dell'ordine a Palermo, per cui capirete che conosco determinati meccanismi. Allora? Io volevo chiedere o perlomeno volevo dare una presunzione. Se fosse successa la stessa cosa, senza che ci fosse il fatto del terrorista, sicuramente il poliziotto sarebbe stato indagato per eccesso di legittima difesa. Siccome il terrorista fa comodo momentaneamente nella dinamica politica e sta dando lustro a tanti politici che si sono inventati ruoli che sinceramente non meritano, chiaramente lì l'indagine non la faranno mai. Uno, perché l'indagine a chi fa il proprio lavoro non va. Scusa, ma che indagine adesso oggettivamente che indagine dovrebbero fare? Cioè no, l'indagine è già per conto tu dici in altri casi, no, in altri casi in viene altri fatta casi, se fosse successa la stessa cosa con una persona di colore in quelle stesse condizioni, fosse successo lo stesso fatto per una persona che non era sicuramente un terrorista, l'avrebbero indagato sicuramente. No, ma certo, ma infatti i casi sono sempre diversi, non è che c'è una cosa, ma non c'è un caso uguale all'altro. Qui si tratta di un terrorista internazionale ricercato, che aveva appena compiuto una strage a Berlino, in fuga per l'Europa, viene intercettato, estrae una pistola e spara. Allora, le cose sono diverse, non è tutto uguale, capito? Sicuramente e sono allora, diverse e per fortuna sono diverse, appunto. È andata come è andata, ma se non ci fosse stato il dettaglio, che non è un dettaglio, è un fatto molto importante, che successivamente si fossero accorti che si trattava del terrorista, avrebbero indagato i poliziotti. La legge è fatta di dettagli, non però si può più, non, perché fa comodo politicamente dare una visione di perfetta vabbè efficienza. Ragazzi, fermo lì. Noi chiudiamo così, Lorenzo, chiudiamo così il 2016. Addio. Chiudiamo così. Ma non chiudiamo solamente coi nani, ormai colonna sonora di questa trasmissione. Chiudiamo proprio, dici, basta, balacca e burattini. No, aspetta, chiudiamo in questo modo, chiudiamo in questo modo. Aspetta, Pronto? Pronto? Sì? Pronto. Certo che sto prete che avete. Esther, sì? Esther, voglio augurare buon Natale a Richard. Grazie. Sono Cruciani, me lo passi un attimo? Grande Esther. In questo momento sta riposando. Sta riposando. Sveglia un secondo, dobbiamo fare gli auguri di buon Natale, assolutamente. Sveglialo un attimo, scuotilo. No, magari se chiamate domani mattina presto lo trovate sveglio. Allora, buon Natale a te e i nani, andiamo con i nani che l'abbiamo messa a manetta. Vai tu con i nani allora. Esther, buon Natale alla famiglia Benson. Vai con i nani anche tu, vai. I nani. Li avete visti sulle rive del fiume. Brava, con le zine de fuori sempre Esther, sempre. Buon Natale, cara, buon Natale. Basta. Ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24, libera la voglia di fare.